Radio 24 Reportage. Il Tea Party Movement di Paolo Liebel von Schirach. Washington ci ha mentito, ma noi stiamo per riprenderci Washington. Queste le parole di Angela McGlowan, esponente del Tea Party Movement, in un discorso al primo congresso nazionale di questo movimento che si è tenuto in febbraio a Nashville, nel Tennessee. Da circa un anno c'è un nuovo fenomeno politico in America, il Tea Party Movement, o movimento della festa del tè. È un movimento spontaneo, di base, attivo adesso in molti stati, che esprime forte opposizione alle politiche, soprattutto economiche, dell'amministrazione Obama, politiche che porterebbero, secondo loro, ad una crescita esagerata dei poteri pubblici, a un inasprimento fiscale e a una pericolosa ingerenza governativa nelle attività economiche dei privati. In gennaio, il Tea Party ha aiutato i repubblicani a togliere ai democratici un seggio senatoriale nel Massachusetts, tenuto per decenni dall'ultrademocratico Ted Kennedy. I repubblicani, anche se spesso bersagliati dal Tea Party per avere abbandonato il rigore fiscale di una volta, vedono il movimento come possibile alleato. Sentiamo le idee di William Galston, studioso di politica americana alla Brookings Institution, un think tank più vicino ai democratici, e le analisi di Brian Darling, direttore per le relazioni con il Senato alla Heritage Foundation. William Galston, guardiamo questo fenomeno Tea Party e cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Sappiamo che non è un vero partito politico, ma allora che cos'è? It's a political movement. È un movimento politico. Il Tea Party è un movimento politico costituito da cittadini che hanno obiezioni molto sentite e fondamentali riguardo al corso scelto dall'amministrazione del presidente Obama a partire da quando questo governo fu inaugurato nel gennaio del 2009. Quelli del Tea Party sono preoccupati in modo particolare riguardo all'ammontare della spesa pubblica e riguardo a ciò che loro considerano un'eccessiva crescita del settore pubblico, che loro vedono non solo come irresponsabile e insostenibile dal punto di vista fiscale, ma anche come una minaccia diretta alle loro libertà individuali. Ancora lei, Galston, questo movimento può in seguito trasformarsi in un terzo partito politico? First of all, the basic structure of American politics makes it very difficult for third parties, even if they temporarily arise, to sustain themselves. In primo luogo, la struttura basilare della politica americana rende molto difficile a terzi partiti politici, anche se emergono per un po', di autosostenersi per un lungo periodo di tempo. La storia di terzi partiti in America è che sorgono, hanno attività per un certo periodo di tempo, ma poi, se hanno veramente successo, riescono a modificare la sostanza di uno dei due partiti già esistenti, che diventa sensibile al nuovo messaggio politico tanto da assorbire il nuovo movimento attraverso l'adozione di una parte della sua agenda. Per cui loro non sono interessati a creare un terzo partito politico, sono interessati ad una riforma e ad un rinnovamento di uno dei partiti esistenti. So they're not interested in a third party, they're interested in the reform and renewal of one of the existing parties. Veniamo al concreto, alle primarie repubblicane e all'influenza del Tea Party sulle competizioni elettorali. Brian Darling, ci parli delle prossime elezioni a partire dalla Florida. Sure. The Tea Parties are having a dramatic effect nationwide on many races. Florida is a great example. Certo, il Tea Party sta avendo un grosso effetto in competizioni elettorali a livello nazionale. L'elezione per il Senato in Florida è un ottimo esempio. Charlie Crist, il governatore repubblicano uscente della Florida, era in corsa per le primarie, ma contro di lui si è presentato un altro repubblicano, Marco Rubio, già presidente della legislatura dello Stato, e Rubio gode adesso dell'appoggio del Tea Party Movement. Ed ecco che Crist adesso, non potendo vincere le primarie repubblicane, ma volendo tuttavia partecipare, si presenta come indipendente. Questa competizione senatoriale in Florida diventa un importante esempio riguardo alla forza del Tea Party Movement negli Stati Uniti. Quindi Tea Party come forza dirompente. E lei, Galston, che cosa pensa riguardo alla reazione del Partito Repubblicano rispetto a questo fenomeno che, come ci dice Darling, ha già avuto conseguenze a livello di elezioni locali? In the short term, it's clear that the emergence of the Tea Party movement. Nel breve periodo è chiaro che l'emergere del Tea Party Movement ha creato conflitto all'interno del Partito Repubblicano tra l'establishment del partito e questa forza insurrezionale. Ma nonostante questo, la maggior parte dei leaders repubblicani vedono bene l'emergere del Tea Party Movement in quanto lo vedono come fonte di una nuova energia, di una nuova mobilitazione di base, e loro pensano che nel complesso il Tea Party Movement migliorerà le loro probabilità di avere maggior successo elettorale nelle elezioni congressuali che si terranno questo novembre. Alcuni notano che individui o gruppi associati al Tea Party Movement siano estremisti di destra, che propagano idee bizzarre, che sono razzisti, è vero? Every political movement has its fringe adherents, people whose views are eccentric and objectionable. Ogni movimento politico ha strane frange, gente che ha opinioni eccentriche, che suscitano obiezione, e altri che addirittura possono rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. E sono certo che ci sono elementi di questo tipo nel Tea Party Movement. Tuttavia, a me sembra che la maggioranza degli aderenti siano normali cittadini, i quali, come ho detto prima, hanno obiezioni fondamentali rispetto alla direzione generale presa dal paese dal momento in cui il presidente Obama è entrato in carica. Non possiamo escludere la possibilità che alcuni individui nelle frange del movimento vadano oltre i limiti. E abbiamo visto che cosa è successo 15 anni fa, quando il sentimento antigoverno andò al di fuori di ogni misura e quando questo sentimento si manifestò nella bomba Oklahoma City, che costò la vita a più di 160 americani. Tutto questo può diventare pericoloso, ma sarebbe un'esagerazione associare la maggioranza dei membri del Tea Party Movement con questo genere di tendenze pericolose. E tutto questo cosa significa, Brian Darling? I successi recenti indicano che il Tea Party è una vera forza. È un fenomeno che si è verificato sull'onda del salvataggio di Wall Street, un'operazione iniziata dai repubblicani. Per cui questo non è tanto un movimento partitico quanto un'espressione di scontento riguardo al fenomeno della crescita del governo federale. E questa era cominciata sotto i repubblicani, ma poi è continuata e in effetti è stata accelerata sotto l'amministrazione di Obama. Il grosso del Tea Party Movement risiede nella base repubblicana. La maggior parte degli aderenti partecipano di più all'interno del Partito Repubblicano piuttosto che quello democratico e si vede l'effetto. Queste persone partecipano al dibattito interno al Partito Repubblicano, organizzano manifestazioni e questo gli dà molta copertura dai media, cosicché possono fare passare il loro messaggio su più libertà e meno governo, basta con i salvataggi, no alla crescita del debito pubblico. E loro hanno paura delle conseguenze fiscali della recente riforma sanitaria che rappresenta un'altra espansione del governo federale. In conclusione, Brian Darling, molti americani vogliono meno governo, ma gli indipendenti, che sono oggi il voto decisivo, possono identificarsi in questo nuovo Tea Party Movement? You have to understand. Who created the Tea Party movement? It was President Barack Obama. Lei deve capire che il principale sostenitore del Tea Party Movement è, ironicamente, il presidente Barack Obama. Obama è il più potente organizzatore della causa conservatrice che io abbia visto in vita mia, accanto a Ronald Reagan. Il movimento è nato in opposizione alle politiche di questo presidente che ha voluto continuare i salvataggi iniziati sotto l'amministrazione di George Bush, che ha creato una sorta di socializzazione di fatto della sanità. Ma agli americani non piace l'idea degli inasprimenti fiscali. Alla gente non piace l'espansione del governo federale. Al contrario, lo vogliono vedere ridotto. Se i repubblicani vinceranno seggi, se riescono a riprendere il controllo della Camera e forse anche del Senato, tutto questo non sarà un referendum su quanto bravi siano i repubblicani, ma piuttosto un referendum su quanto gli americani siano scontenti dell'amministrazione Obama e delle sue idee.